GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Illegittimo il differimento del TFR per i dipendenti pubblici, compresi i regionali, lo ha stabilito la Corte Costituzionale. Le ripercussioni in Friuli Venezia Giulia. Lunedì il tavolo al Ministero delle Imprese Made in Italy su Wärtsilä. Ieri il ministro Adolfo Urso ha usato parole rassicuranti nella sua visita a Trieste, ma non sono stati fatti nomi di aziende. Si allungano di nuovo i tempi di pagamento delle grandi e medie imprese e le conseguenze sono soprattutto sulle piccole. A Trieste 9 lavoratori in nero su 25 controllati a fronte delle verifiche in 8 cantieri edili. I carabinieri promettono altri accertamenti. Un delfino morto si è sbiaggiato ieri pomeriggio a Grado davanti a uno degli stabilimenti della GIT. Dovrebbe trattarsi di una morte naturale. L'ente Friuli nel mondo celebra i suoi 70 anni di storia e 140 Focolars attivi in Italia, Europa, in tutti i continenti. Lo storico Carlo Ginzburg sarà uno dei vincitori di questa sera del premio Hemingway. La nostra intervista. Buongiorno e benvenuti all'edizione meridiana del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di oggi 24 giugno. Sono le 12:31 minuti e 25 secondi. In diretta è Antonio Di Bartolomeo che vi parla e Maria Spezia. In primo piano dunque le ripercussioni della sentenza della Corte Costituzionale che ha valutato come illegittimo il differimento del TFR per i dipendenti pubblici, compresi i regionali, gli insegnanti, gli operatori della sanità, tra gli altri. In alcuni casi i lavoratori devono aspettare anni per ricevere l'intero importo. Lo stop della Corte Costituzionale al differimento delle liquidazioni dei dipendenti pubblici in Friuli Venezia Giulia, stando alle stime della CGIL, coinvolge oltre 80.000 persone, tra i comparti con più personale, in testa l'istruzione e la ricerca, che da solo ne conta 24.000, quasi il 30% del totale. Seguono i sanitari e il personale in regime di diritto pubblico, come magistrati, prefetti, corpi di polizia, vigili del fuoco, entrambi i settori, con oltre 19.000 dipendenti, pari a circa il 23% del totale, al 16% il comparto unico del personale delle autonomie locali, regione e comuni compresi, che supera i 13.500 dipendenti e che da solo stima circa un migliaio di pensionamenti nell'ultimo anno. Altri circa 6.000 dipendenti lavorano invece nel settore delle funzioni centrali, ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici e del cosiddetto comparto autonomo. Complessivamente nell'ultimo anno sarebbero andati in pensione in circa 3.000, altrettanti lo scorso anno, di essi in diverse migliaia sarebbero in attesa della liquidazione, sempre stando alle stime dei sindacati, che da sempre chiedono al governo di superare le norme che ne posticipano di almeno 2 anni e 3 mesi il pagamento del TFR e TFS, 2 anni e mezzo nei casi limite. Per il segretario regionale della CISL Funzione Pubblica, Salvatore Montalbano, una forzatura imposta per legge, una palese ingiustizia della quale ora è stata riconosciuta l'illegittimità anche dal punto di vista costituzionale, una sentenza importante che cerca di superare la disparità di trattamento tra pubblico e privato, ma che non deve restare sulla carta, sottolinea la segretaria regionale della CGIL Funzione Pubblica Orietta Olivo, ricordando che la Corte aveva già rivolto un monito al legislatore con una precedente sentenza del 2019. I sindacati annunciano un'azione a livello nazionale sul governo per l'apertura immediata di un tavolo di confronto. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. E lunedì il tavolo al Ministero delle Imprese e Made in Italy su Wärtsilä. Ieri il ministro Adolfo Urso ha usato parole rassicuranti nella sua visita a Trieste, ma non sono stati fatti nomi di aziende. Rassicurazioni sull'impegno del governo, ma ancora nessun nome di possibili acquirenti. All'indomani dell'incontro in prefettura a Trieste con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il timore principale è che al tavolo, convocato per lunedì al Mimit sul caso Wärtsilä, il confronto si concentri sugli ammortizzatori sociali e non si delinei invece ancora una prospettiva concreta per il futuro dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra. Delle 2 manifestazioni di interesse presentate al precedente tavolo dalla multinazionale finlandese per la reindustrializzazione del sito, una non sarebbe in realtà mai arrivata, mentre l'altra non sarebbe considerata adeguata. Fra le ipotesi circolate c'è poi quella di un partenariato con una società a partecipazione pubblica. Intanto 2 settimane fa la società aveva chiesto ai sindacati di avviare un confronto sulla cassa integrazione. Antonio Rodà, Wilm. Noi ci aspettiamo che lunedì cominci a emergere qualche elemento di un piano industriale o comunque di prospettive industriali per il sito, che è l'impegno che il governo si è assunto all'ultimo tavolo del 18 maggio. Quello che non vorremmo emergesse come unico tema di discussione è l'azienda che si presenta parlando esclusivamente di ammortizzatori sociali. Al tavolo, assente il ministro Urso, il governo sarà rappresentato dal sottosegretario Fausta Bergamotto, presenti poi l'azienda, le organizzazioni sindacali e la regione. Io mi aspetto una presa di responsabilità da parte di Varsila e l'auspicio di Alessia Rosolena, assessore regionale al lavoro, che nel percorso ha sicuramente disatteso quelli che erano gli accordi su tempi e prospettive per la reindustrializzazione del sito. Al piano di accompagnamento con gli ammortizzatori sociali devono corrispondere da una parte un impegno di Varsila in un percorso di trasparenza sul piano di reindustrializzazione e dall'altra, conclude, un prolungamento dei tempi a parziale copertura dei ritardi accumulati. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Si allungano di nuovo i tempi di pagamento delle grandi e medie imprese e le conseguenze sono soprattutto sulle piccole. Uno studio dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese CGA di Mestre stima in 76 i giorni che passano tra una fattura e la liquidazione in Friuli Venezia Giulia, peggio della media nazionale di 8 giorni tra le regioni, con il dato meno buono. 76 giorni per un pagamento tra aziende private sono tanti e il tempo medio per saldare le fatture commerciali rilevato nel primo trimestre del 2023 tra imprese del Friuli Venezia Giulia, tempo ottenuto in base alle informazioni raccolte da Cribis iTrade e rielaborate dall'ufficio studi della CGA di Mestre. Il riferimento è sull'azienda che deve effettuare i pagamenti, non su quella che li deve ricevere. Per la maggior parte si tratta di aziende di grandi dimensioni che fanno valere il proprio peso nei confronti delle piccole aziende o artigiane, come è nel caso dei contratti di subfornitura. Il tempo medio di pagamento del Friuli Venezia Giulia è uno dei più alti delle regioni italiane, solo in Sicilia e Valle d'Aosta i tempi sono più lunghi. Questo fenomeno nei rapporti commerciali si somma a quello fra settore pubblico e privati e si ripercuote negativamente in termini di liquidità delle imprese, soprattutto in un periodo come quello attuale che fa registrare un aumento dei tassi di interesse. La ricerca Cribis iTrade evidenzia come in Italia le piccole imprese siano più puntuali nei pagamenti. Il 42% salda le fatture nei tempi stabiliti dal contratto, valore che scende con l'aumentare delle dimensioni dell'azienda, e solo il 15% delle grandi imprese paga nei tempi prefissati. La CGA di Mestre, che ha condotto lo studio, ritiene che lo slittamento in diverse situazioni sia voluto, perché in questo modo il committente si finanzia a costo zero, scaricando sui creditori il problema del reperimento della liquidità, con conseguente rischio di mandare in crisi aziende di piccole dimensioni. Nell'ambito dello stesso studio c'è anche un dato in parte contraddittorio. Pagamenti ritardati sì, tra le imprese del Friuli Venezia Giulia, ma non troppo. Solo nel 7% dei casi il ritardo supera i 30 giorni, dato più basso della media nazionale di poco inferiore al 10%. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. E sono 400 i lavoratori e pensionati del Friuli Venezia Giulia che hanno raggiunto oggi Roma per la manifestazione sulla sanità pubblica indetta dalla CGL nazionale. Siamo in tanti, ha spiegato il segretario regionale CGL William Pezzetta, perché sta crescendo la consapevolezza dell'aggravarsi delle criticità che condizionano il funzionamento della sanità pubblica. Il nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Trieste ha fatto emergere 9 casi di lavoratori in nero a fronte delle verifiche in 8 cantieri edili in cui erano attivi in 25. L'operazione era intesa non solo a prevenire e reprimere lo sfruttamento del lavoro, ma anche a verificare l'applicazione delle norme di sicurezza. Sono emersi 4 casi di lavoratori non comunitari privi del permesso di soggiorno, mentre in un'altra impresa è stata sospesa dall'attività a causa della presenza di un lavoratore in nero. Altre 2 aziende presentavano irregolarità varie nell'impiego di 4 lavoratori. In tutto sono state inflitte sanzioni amministrative per un totale di 35.000 euro. I controlli seguiranno per tutta l'estate, hanno fatto sapere i carabinieri. Un delfino morto si è spiaggiato ieri pomeriggio a Grado davanti a uno degli stabilimenti della GIT. Dovrebbe trattarsi di un decesso naturale, perché il mammifero non ha segni di eliche o di altri oggetti che lo abbiano potuto ferire. Secondo le prime valutazioni sembra che fosse morto da almeno una decina di giorni sulla base dello stato di decomposizione. La GIT, come da protocollo in questi casi, ha avvisato subito la capitaneria di porto. La carcassa è stata rimossa questa mattina presto. La giunta regionale ha approvato l'assegnazione di 100.000 euro al comune di Tarvisio per riparare il palazzetto dello sport Mariano Amalfitana e il polisportivo comunale Maurizio Siega, danneggiati da venti eccezionali lo scorso febbraio. I lavori includono l'impermeabilizzazione parziale del tetto del palazzetto dello sport e il rifacimento completo del tetto del polisportivo. Passiamo alla pagina del tempo. Il cielo è sereno sulla costa, variabile su pianura e monti. Le temperature registrate alle 11 a Trieste 26 gradi, mare poco mosso con temperatura di 24 gradi. Gorizia e Udine 28, Pordenone 26,5. Tolmezzo e Fornisopra 21,5, Sappada e Tarvisio 17,5, Piancavallo 17, sullo Zoncolan 13,5, sull'Ussare 10,5, a Grado 27,5, a Lignano 27 gradi, temperatura del mare nelle due località 24 gradi. Le previsioni dell'Agenzia regionale di protezione ambientale: oggi pomeriggio su pianura costa prevalenza di cielo poco nuvoloso, sui monti cielo da poco nuvoloso a variabile con bassa probabilità di qualche locale pioggia, l'atmosfera sarà più secca dei giorni precedenti. Per domani cielo in prevalenza sereno, sulla costa di primo mattino soffierà borino e poi venti a regime di brezza. A Spilimbergo oggi il coordinamento contrario al secondo inceneritore ha lanciato una mobilitazione sull'impianto. C'è un progetto da anni, brucierebbe rifiuti speciali pericolosi nella frazione di Tauriano. Una struttura di questo genere, così grande, per Spilimbergo, così vicina, a 600 metri dalla città, ma è possibile? C'è gente che già pensa a vendere quello che ha e trasferirsi altrove. Non è possibile che la ditta chieda delle deroghe in merito alla vicinanza della struttura. Con che coraggio? La comunità di Spilimbergo esprime le sue preoccupazioni in merito all'ampliamento dell'inceneritore di Tauriano. Secondo il progetto del gestore Ecomistral, il nuovo impianto sarà in grado di trattare annualmente sino a 70.000 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non. Oggi in piazza al banchetto del coordinamento no inceneritore, giovedì sera a Barbeano, terza assemblea pubblica. Uno dei portavoce, Francesco Franz. Abbiamo tre richieste che abbiamo anche inoltrato in maniera formale. La prima è quella che il sindaco si faccia portavoce, dato che siamo nella stessa barca, respiriamo la stessa aria, della procedura di creazione di inchiesta pubblica presso la Regione. La seconda è che nella Commissione Sanità di martedì 27 giugno, che si terrà alle ore 14 presso il Comune, si vada a parlare non solo dell'ospedale di Spilimbergo, ma anche della questione dell'inceneritore. Mentre la terza è che renda pubblico il Comune, ma anche la Regione, tramite i suoi canali informativi, in maniera chiara e concisa, tutti i rischi e gli elementi fondamentali di questo progetto. Primo fra tutti la deroga che l'azienda ha chiesto per la vicinanza dell'abitato di Tauriano e di Case Sparse, che sono entro i 600 metri. Il sindaco Enrico Sarcinelli conferma la sua disponibilità all'inchiesta pubblica e spiega di voler organizzare a breve un incontro pubblico con Regione, azienda sanitaria e ARPA. L'azienda, dal canto suo, ha messo online il nuovo sito per presentare alla cittadinanza il progetto, spiega, con intenzione di fornire informazioni trasparenti e la possibilità di visitare il sito. Spilimbergo, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alcune notizie di cronaca, cominciamo con una che arriva da Trieste. La polizia ha identificato il responsabile dell'accoltellamento in Cavana la sera del 10 maggio. Fu ferito un cittadino iracheno, il presunto autore è un tunisino di 40 anni, pregiudicato, indagato per il reato di lesioni gravi e porto abusivo di armi, segnalato alla Procura della Repubblica perché appunto ritenuto responsabile di aver accoltellato un iracheno la sera del 10 maggio scorso in Piazza Cavana al culmine di una lite. Ancora cronaca, ieri è stato trasportato all'ospedale di Udine con l'elisoccorso in codice rosso un uomo di 40 anni caduto da un'altezza di 6 metri a San Daniele del Friuli. L'uomo cercava di entrare in casa dalla finestra perché era rimasto senza chiave. Del fatto sono stati avvisati anche i carabinieri. E dopo l'aggressione di Lignano Sabbiadoro della serata del 15 giugno scorso, ai danni di una coppia di turisti austriaci aggrediti e malmenati per futili motivi da due giovani, i carabinieri della stazione balneare hanno identificato i presunti autori, nei confronti dei quali è stato proposto il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune Rivierasco per 3 anni. Divieto poi emesso dal questore di Udine e notificato dagli stessi militari. La sezione operativa antibracconaggio e reati in danno degli animali del reparto operativo dei Carabinieri di Roma, insieme alle unità di Perugia e Udine, ha denunciato 4 persone per ricettazione e maltrattamento di animali. Durante un'operazione all'Albadia e della Tisana sono stati sequestrati 559 uccelli di varie specie, di cui alcuni già morti, e sono stati scoperti soldi nascosti nei pantaloni di uno dei sospetti. Gli uccelli, provenienti illegalmente dalla Polonia, sono stati affidati a un centro di recupero a Terranova, nell'Isontino. La polizia locale di Pordenone Cordenons ha sgomberato un immobile occupato abusivamente in via Superiore. Nell'abitazione vivevano due stranieri, dipendenti di un'azienda pordenonese. La segnalazione era arrivata dallo stesso proprietario dell'immobile. L'ente Friuli nel Mondo celebra i suoi 70 anni di storia e i 140 Fogolars attivi in Italia, Europa e nel mondo. Stamattina un convegno a Udine in Castello, il focus su turismo delle radici e PNRR. Grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 20 milioni a livello nazionale, un progetto per regione fino a 200.000 euro, da settembre si strutturerà in Friuli Venezia Giulia un'offerta turistica rivolta ai viaggiatori delle radici, per chi all'estero vuole scoprire paesaggi, odori e sapori di cui magari ha sentito parlare solo dai nonni. L'annuncio alla convention per i 70 anni dell'ente Friuli nel Mondo, nato proprio nella sala del castello di Udine, in cui si sono dati appuntamento i 140 Fogolars italiani ed esteri. Giovanni Maria De Vita, responsabile nazionale del progetto. Ci sarà il coinvolgimento delle nostre comunità, alle quali noi chiederemo di individuare anche dei testimonial che possono venire qua, compiere il viaggio delle radici e parlarne poi nei paesi in cui vivono. Non ha mai perso il legame con questo territorio Hector Giacomelli, che ha deciso di imparare il friulano da autodidatta in Brasile. Nella città di Ivorà ci sono dei vecchi, dei nonni, che parlano ancora e parlano spesso. Quindi quando devo praticare me ne vado lì. L'ultimo è arrivato il Fogolare islandese, appena inaugurato, il più a nord del mondo. In sala Carla e Giancarlo, madre e figlio del Fogolare di Escuelle in Patagonia, il più a sud del mondo. In casa si parlano tre lingue, argentino, italiano e friulano. Qual è un'espressione che dici spesso a tua nonna in friulano? Bundi, c'è muzzino. E sempre avanti, lei dice, sempre avanti. Per l'associazione, tra le prime a rappresentare gli italiani emigrati all'estero, la sfida è anche quella di far tornare i giovani che a migliaia scelgono ogni anno di andarsene. Loris Basso, presidente dell'ente Friuli nel Mondo. Le nostre imprese hanno bisogno di avere giovani che rientrano, quindi il prossimo futuro ci sarà un grandissimo progetto di promozione affinché questi giovani vengano a conoscere le realtà che oggi sono in Friuli, che sono completamente diverse rispetto ai loro anni. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E la nostra è tra le tre regioni d'Italia dove le cantine fanno più fatica a trovare personale, dietro solo a Veneto e Sicilia. La difficoltà riguarda l'83% delle cantine interpellate. Il dato è emerso con l'Osservatorio Nazionale del Turismo del Vino 2023 ed è stato reso noto alla sesta edizione del Forum sul Turismo del Vino e del Cibo organizzato al Castello di Grinzane Cavour nelle Langhe. Spostiamoci a Sauris, dove i giovani vogliono preservare e tramandare l'antico idioma germanico che si parla nel paese. Una loro delegazione ha accompagnato i rappresentanti della comunità carnica a Vienna per presentare la grammatica della lingua saurana. È stata un'esibizione speciale del coro Zare, presente assieme a una numerosa rappresentanza della comunità di Sauris, ad accompagnare la presentazione all'Istituto di Germanistica dell'Università di Vienna del volume Grammatica della lingua saurana. Un appuntamento previsto fin dal 2020, anno in cui l'opera è stata pubblicata, ma che a causa della pandemia di Covid si è potuto svolgere solo a 3 anni di distanza. Il volume, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, è stato realizzato nell'ambito di un progetto che ha coinvolto il Comune di Sauris, l'Associazione Amici delle Isole Linguistiche e l'Istituto di Studi sull'Amministrazione Locale, con il supporto scientifico dell'Università di Udine e dell'Accademia delle Scienze di Vienna. A curarlo, Francesca Cattarin, studiosa delle isole linguistiche germanofone del Friuli Venezia Giulia. La grammatica, ha spiegato Lucia Protto, dello sportello linguistico del comune di Sauris, arriva dopo la pubblicazione del vocabolario saurano e di un volume dedicato all'ortografia ed è la conclusione del pluridecennale percorso di normalizzazione della lingua parlata nel piccolo comune carnico, un dialetto appartenente allo stesso gruppo di quelli presenti in Tirolo e in Carinzia e che oggi è parlato da circa metà della popolazione residente a Sauris. Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato incentivi annuali per progetti culturali realizzati dai giovani dai 14 ai 36 anni, contributi che variano dai 10 ai 20 mila euro e coprono spettacoli dal vivo, cinema, arti visive e altro. Domande aperte dal 17 luglio al 15 settembre sul sito istituzionale della Regione. La Polizia Postale e il portale di affitti a breve termine Airbnb lanciano insieme un'iniziativa per la prevenzione delle truffe in rete. Numerosi tentativi riusciti di frode su annunci di case per le vacanze. Di solito questo tipo di truffa fa leva sull'esigenza dell'internauta non solo di risparmiare ma anche di ottenere la migliore soluzione al minimo prezzo. Pertanto è fondamentale fare attenzione ai segnali spia, indica Maria Cristina Fagone, dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia. Segnaliamo ora un appuntamento odierno, seconda edizione a Trieste per Smart Pride, manifestazione intesa a sensibilizzare sulla realtà della comunità queer, cioè quella che non vuole dare un nome alla propria identità di genere o al proprio orientamento sessuale, ma non rientra nel mondo eterosessuale. Appuntamento alle 17 in Piazza Goldoni. È in programma sempre a Trieste la due giorni della quarta tappa del campionato regionale di skateboard, oggi in avvio presso lo skatepark di Via Petitti di Roreto in Rione San Giacomo, dove alle 15 è prevista una sfida aperta a tutti, battezzata Game of Skate, il gioco dello skate, a cui seguirà una seconda competizione alle 19, dedicata ai migliori trucchi, cioè la best trick. A Maurizio Zorni, presidente della Federazione Sport Rotellistici del Friuli Venezia Giulia, abbiamo chiesto quanti sono gli atleti attesi alla manifestazione. Tutti i partecipanti sono circa un centinaio, una quarantina da Trieste e la rimanenza a livello regionale. A quale tipo di pubblico puntate per questa manifestazione? Giovani, ma forse anche non solo? Esattamente, è una manifestazione rivolta a tutte le fasce d'età in pratica, dai giovani fino agli anziani, diciamo. Hanno avuto veramente un incremento di pubblico. Mi riferisco addirittura ai campionati precedenti delle tappe, dove abbiamo visto più fasce d'età, proprio dai 10 ai 65-70 anni anche presenti. Insomma, comunque veramente una cosa interessante da vedere, sicuramente. Quali sono le difficoltà che dovranno affrontare gli atleti in questa edizione della competizione? Le difficoltà sono sempre le stesse per tutte le 5 tappe di campionato. Diciamo che sono delle difficoltà fissate diciamo su attrezzi a livello di tubolari e di rampe, per cui di vasche scavate. È una cosa proprio fatta in loco, proprio negli skate park adeguati, omologati per questi tipi di manifestazioni. Io immagino che i vari rischi però siano stati attentamente studiati per non essere troppo pericolosi per i partecipanti. Assolutamente, comunque gli atleti sono tutti equipaggiati con caschi, per cui sono all'altezza di poter avviare il massimo di possibili difficoltà, loro farsi male, ecco, sono abbastanza abituati a questo, per cui non è un problema affrontare le difficoltà proposte nella gara di regionali e anche di nazionale. Lo storico Carlo Ginzburg sarà uno dei vincitori di questa sera del premio Hemingway. Le motivazioni di riconoscimento per la sezione Avventura del pensiero indicano la sua capacità nell'aver ricostruito l'immaginario e la quotidianità di interi periodi storici partendo da microcosmi ben definiti e rintracciando le voci di chi di solito non ha voce. In mattinata Ginzburg ha condotto un intervento che si è tenuto a Lignano Sabbiadoro, alla Terrazza Mare, intitolato Il mestiere di storico, in cui si è soffermato sui cambiamenti legati alle nuove tecnologie. Lo abbiamo intervistato per chiedergli quali siano gli svantaggi derivanti dall'uso della rete. La rete può dare, diciamo, la possibilità di intervenire, dare una sorta di diritto di parola a persone che sono animate da impulsi razzisti, eccetera, eccetera, e queste affermazioni che possono fare in senso razzista raggiungono una fascia di persone che ha smesso magari di leggere libri, giornali, eccetera, eccetera, ma presta ascolto a questo. Quando vediamo fatti cronaca orribili come appunto due sedicenni che uccidono un clochard, ci sarà dietro l'effetto di messaggi lanciati sulla rete, non lo so, cioè l'Italia è diventato un paese in cui il razzismo è sempre più diffuso e questa è una vergogna. Non è l'unico paese in cui c'è questo, è chiaro, però voglio dire, non possiamo illuderci. Secondo lei quali sono gli argini a queste situazioni? Bisogna ripartire dalla scuola, bisogna pagare di più gli insegnanti, bisogna evitare delle porcherie come quella che è successa pochi giorni fa, in cui si è visto un ragazzo che aveva sparato una pistolettata con proiettili di plastica, ha avuto 9 in condotta, cioè un sintomo minimo, ma mostra come sia avvelenato il clima in cui la scuola agisce. Ci vorrebbe un controllo da parte di persone effettivamente colte, ma invece ne vediamo di tutti i colori, mi pare, no? Per quanto riguarda il governo, dalla corruzione all'ignoranza, che sono del resto compatibili. Domani mattina, dopo il giornale radio alle 8.30, andrà in onda, come di consueto, una nuova puntata di Vita nei Campi. Vita nei Campi, settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani parte con la campagna di semine 2023, un'annata anomala. A seguire la storia di Angelo Floramo, che racconta della notte più magica dell'anno, quella di San Giovanni. Per la rubrica delle normative, le nuove disposizioni in materia di etichettatura del vino. E ancora, nella rubrica della frutticoltura, una scheda su come difendere le nostre ciliegie dalla pioggia. Per quella dei sommelier, un assaggio guidato allo schioppettino, eccellenza dei nostri autoctoni. Nello spazio della floricoltura, il colorato e coreografico Evolvolo. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo, il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono le 12.55 minuti e 55 secondi. Concludiamo questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Redatta e condotta da Maria Spezza e Antonio Di Bartolomeo. La parte tecnica è stata garantita da Viola Romanese e Federico Comar, collaborato in redazione Cristina Polselli. Vi ricordiamo che potete seguirci anche sul nostro sito rai.it, TGRFVG. Grazie ancora dell'ascolto. Vi diamo appuntamento all'edizione del pomeriggio, che è di sabato alle 14.30. Buona giornata e buon fine settimana. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.